Allora, vabbè, innanzitutto una breve. No, purtroppo no, però ci sono le foto. Allora se non c'è il video non ce l'andiamo. Vabbè, allora una breve fase di contesto. Siamo all'interno di Invasioni Urbane, che è una 3 giorni organizzata dai Mammalucchi, la Mammalucco Onlus, che è un'associazione che ogni anno fa queste invasioni urbane. È l'ultimo giorno della 3 giorni, è dedicato a musica sott'olio. Questi sono i Fils. Ok, diciamo che hanno appena finito di suonare e noi gli stiamo togliendo il piacere di sentirsi gli Albano Power, ma non ce ne frega granché per ora. Ma sti cazzi. Una breve introduzione. Allora abbiamo il disturbatore, allora sì. Abbiamo Peppe che è il cantante e chitarrista, poi c'è Marco polistrumentista e poi il disturbatore alla batteria perché Albano e Romina Power. No, ripeti, Albano Power, perché c'è Albano e il cognome non lo so, è Romina Power. Io l'ho capito dopo, pensavo fosse Albano Power, però è per Albano Carrisi e Romina Power, penso. E comunque suonano della Madonna. Sì, sembra. Vogliamo... Albano Power o Albano e Romina Power? No, anche Albano e Romina Power. Felicità ne vuoi parlare. Ne vogliamo parlare di felicità. Allora, ritirando le fila di tutto, vogliamo dire, anzi, vi lascio fare una mini presentazione su cosa volete voi, senza vincoli, siamo nati nel... descrivete in 7 secondi, ma anche di più, anche 9 minuti, quello che siete. Vabbè, brevemente, noi siamo... Tre amici, fondamentalmente tre amici, sì, perché poi viviamo pure insieme, fondamentalmente. Io infatti Daniele non lo sopporto da un po' di tempo. No, sì, è una relazione che lo picchio tutti i giorni. Infatti, tipo, non so se si può sentire sonoro. Questo era il mio pugno. I confronti di Daniele. Nel frattempo il disturbatore ha un adesivo attaccato di transizione di fase. Lasciatemi spendere però, tipo, un attimino di parola su transizione di fase, perché io sono contento. Ora faccio 2 secondi il serio, ma giuro che durerà poco. È una radio che io sponsorizzo della Madonna, perché mi piace, è fatta da amici, è fatta con criterio, è fatta bene e sono contento che esista questa realtà a Reggio, per cui mi fa piacere oggi fare questa pseudo intervista. Mi sento pure un coglione rispetto, perché cioè, qua c'è mica che tipo poi ci vediamo in giro tipo e sbevassiamo, però adesso lui fa l'intervista, te le faccio il serio, durerà poco, promesso. Detto questo, viva transizione di fase sempre, perché sono bravi e speriamo che duri questa cosa. Noi siamo i Fils, a Reggio ci conoscete tutti, sapete chi siamo. E se non vi conoscono, cosa devono fare? No, nel senso che mica per il gruppo, ci conoscono come individui. Poi niente, io faccio le vertenze sindacali, Marco Ragno tiene la contabilità e Daniele rompe i coglioni, cioè questo è il costo del gruppo, è così. E quindi niente, a questo punto passo a Marco Ragno, che tra una partita doppia e l'altra vi dirà qualcosa. Fagli fare la domanda. La domanda è semplicemente dire la prima cosa che vi viene in mente dopo aver suonato è che cosa pensate di poter fare a brevissimo. Suonato sempre citando Albano, felicità, perché comunque arrivare a suonare qua è sempre un bel traguardo. La felicità. Per il resto niente, ora a progetti stiamo pensando di fare un disco completo, perché finora abbiamo questi pochi pezzi che avete sentito. Dove si possono ascoltare i pezzi per ora? Per ora sul MySpace, www.youparl.com/ questo è il pre-ascolto. Una volta che uno si scarica MySpace/Pills. Ma no, allora vabbè, una domanda che è più o meno seria, voi potete rispondere in maniera seria oppure no. Vabbè, provenite ovviamente da un ambiente che è Reggio Calabria, che da un po' d'anni, anzi, mi riferisco anche a te. Tu con gli Strade d'Aria eri in tutt'altro contesto, ma anche, penso, culturale a Reggio. Che cazzo è cambiato ad oggi? E che cosa secondo te... Cioè... Posso dire le parolacce? Sì, a oggi. No, tanto poi mettiamo il bip. E che cosa secondo te è andato perso, oppure se ci sono dei margini di miglioramento? Perché sembra più o meno una situazione un po' di stallo. Questa è la domanda seria. No, è risposta seria. La situazione è stagnante. Anzi, secondo me... È una cosa che... Rispetto a quando suonavamo noi è peggiorata. Ok, con le Strade d'Aria. Rispetto ai tempi delle Strade d'Aria... Ah, ok. Rispetto ai tempi della Strada d'Aria è peggiorata dal punto di vista di contesto. Non ci sono più i gruppi che suonano, non ne vedo più. Oppure se ci sono, stanno nei garage, dove sta? Cioè... Io non li vedo, e questo è il problema. Noi con i Fields è un discorso che è anche legato tantissimo al locale di Daniele, che organizza concerti, eccetera. Però ci rendiamo conto che non si vedono i reggini non si vedono. Io ormai ho 32 anni e tipo non è che ne ho visti assai, però ne ho visto qualcosina e non ho visto miglioramenti, anzi ho visto forse qualche cosina di peggio rispetto a quando suonavamo con il precedente gruppo. Le nuove leve non si fanno vedere, non si fanno sentire. Molto. Ma è un problema proprio culturale della città, oppure è un problema di spazi, di non lo so, proprio non per fare politica, perché è l'ultima cosa che voglio fare, però veramente il problema secondo voi dove può essere? Perché a un certo punto ci deve essere, secondo me, o un collasso totale o un totale risveglio, o dobbiamo aspettare il 2012 e i Maya. È un problema culturale, è un problema culturale, perché adesso fare musica non è bello come lo concepivamo magari in quel periodo, che era bello soltanto suonare, e adesso io vedo i ragazzini che suonano, è vero che per loro è importante farsi la serata, è importante farsi le 150 euro, ed è quella, finisce là, no? E quindi si fanno le cover, si fanno le canzoni di Ligabue e si fanno queste cose così, e a Reggio è finito questo, è finito la voglia di scoprire, la voglia di anche di esporsi, magari facendo delle cazzate, perché cioè, magari noi con le Strade d'Aria e adesso con i Fizz facciamo cazzate, però la cosa positiva, e parlo anche con te perché abbiamo avuto la possibilità di condividere un palco, ci esponiamo. Questo può piacere o meno, per l'amor di Dio, poi ci sono 3.000 difetti, però ci esponiamo e non vedo più questa voglia di esporsi. Allora, per un ragazzino che si piglia la chitarra, oggi si compra la Fender o la Gibson, mentre io suonavo con la chitarra tedesca presa da un ubriacone, suonano tutti bene, tecnicamente sono tutti bene, però fanno le cover, perché poi vanno a suonare al papero, vanno a suonare in questi cose così, perché li pagano, perché il contesto è così. E noi andiamo a suonare ad Aieta, gratis, e ci paghiamo la stanza, e ci andiamo sotto, però quando torniamo da lì siamo contenti, perché è bello suonare, cioè è bello... È una vacanza, cioè tipo c'è chi va in campeggio e se ne va a ballare il latinoamericano, facendo... noi andiamo a suonare. A volte ci spendiamo, altre volte ci arriviamo a paro, però è bello. Ecco, io non vedo questo, non vedo più la voglia di divertirsi. E mentre, poi magari vedo Daniele che si organizza le serate e chiama i gruppi da fuori. E questo è veramente un dolore proprio, perché non riesco a capire questa evoluzione. Forse sono i tempi, forse sono il periodo, il cazzo ne so, però è così. Io ho una mia personale opinione. Allora, per quanto riguarda i gruppi di Reggio Calabria, qualche cosa c'è, nel senso gruppi come i Film Noir, che tra l'altro sono nostri amici, con i quali abbiamo suonato anche ad Arezzo Wave, anche gruppi come Murnau, sto citando gruppi con una certa esperienza comunque, che hanno fatto la loro caretta e sono arrivati pure a suonare fuori. Quindi cioè, qualche realtà c'è, si muove qualcosa. Io credo che sì, frammentata, però è un discorso a livello nazionale, forse a livello mondiale, la crisi musicale che stiamo attraversando, secondo me. Non vedo barlumi, diciamo, di inventiva, non vedo. Forse può essere il live, proprio la dimensione. Esatto, il live è la dimensione perfetta. Sì, sì, sì, sì. Io riproducibile a casa. Esatto, con tutta la roba che c'è su internet, MP3, MySpace, uno non ci esce parte. Per cui io il disco non me li scarico più, mi vedo i concerti, esatto. Se il gruppo mi piace mi compro il CD. E questo penso sia l'unica via d'uscita di questo marasma di musica che c'è oggigiorno. Noi puntiamo molto sul live, noi come Tears puntiamo molto sul live anche per la strumentazione particolare, insomma cerchiamo di fare uno spettacolo apprezzabile dai più, insomma non è uno spettacolo per pochi secondo me. Ora vabbè, lasciato il contesto industria musicale, volevo fare una domanda prettamente musicale, ossia vedo nella vostra proposta due anime. Una che vabbè viene da tutto quello che può essere il post-rock più ambientale, quello più nordico tra virgolette, l'altra un altro tipo di proposta. Ora voglio capire se è ovvio che non potrete rispondermi perché il processo di composizione è un processo abbastanza complesso e niente pianificabile, però voi come vedete magari queste due anime continuare di pari passo oppure vorreste svilupparne una delle due? È una domanda da 10 milioni di dollari. Allora, non sappiamo ancora cosa andremo a sviluppare. Diciamo la componente fondamentale dei Tears che ho riscontrato per la prima volta suonando a Reggio Calabria è sicuramente una componente pop, perché il cantato e il modo di esibirsi molto melodico e ci piace molto questo discorso. Qui si inserisce il Giorgino D'Angelo che esatto. Il disturbatore. Grazie. Ora no. Disturbatore, se vuole siamo nel suo campo. Non vuole intervenire. Niente, comunque abbiamo anche questa componente diciamo post rock, anche se forse più post folk per il tipo di musica che andiamo a fare noi, che sicuramente sta nel nostro, ora parlo come Lillo Poti, sicuramente Azzorri, no, sicuramente sta nel nostro bagagliaio culturale. È ritornato il disturbatore di Soffia. Avete parlato male? No, abbiamo parlato della vena pop dei film e tu prima mi citavi Nino D'Angelo, non sì, a perché, caso. Perché noi ci ispiriamo appunto a questa ondata neomelodica, un tocco di Nino D'Angelo, un tocco di Gianni Celeste, perché... Verissimo Gianni. No, basta questo, basta dire... Quei riferimenti, i colpi... No, non va bene, basta, perché Nino D'Angelo secondo me è l'ideatore dell'indie rock, poi dire indie rock è una cosa proprio... È come dire... Nino D'Angelo. Comunque il concetto fondamentale in tutto questo è di tre persone che si divertono insieme, a parte tutto ora. Recuperiamo questa cosa, divertiamoci insieme. Divertiamoci tipo il batterista che scocca la sigaretta appena accesa. Divertiamoci perché poi alla fine è quello. La musica non paga, non è necessario che paghi, perché appaga. Questo è il caso del concetto che è difficile capire. Non è necessario paghi, è fondamentale appaghi. Allora io questa sera sono venuto a Taurianova, mi sono fatto un concerto. Ma sì, mi sono sbattuto, mi sono stancato, però capito, io me ne farei, cioè farei di questo la mia vita, perché mi sento appagato. anche se non pagato. Questo è concesso. Io sono parzialmente d'accordo, nel senso che il musicista va pagato. Sì, no, sì, per sì, diciamo va pagato e pagato pure. Però se tu ti poni come obiettivo l'essere pagato. No, non come obiettivo, però diciamo un risarcimento melodico. Neomelodico. Il risarcimento neomelodico, esatto. Lo chiameremo così. No, comunque, cioè, è questo il discorso, è fondamentale essere appagati, è chiaro che poi ti sbatti ed è giusto che ti paghino, per l'amore di Dio. Però, tipo, lasciatemi dire una cosa conclusiva, poi io smetto perché sono pure mezzo ubriaco e quindi sono un po'... No, sono un pochettino tipo, come si dice quando uno parla assai? Logorroico, esattamente. Allora, a me fa piacere una cosa fondamentale. Mi fa molto piacere condividere i palchi, perché è una cosa bella. Mi ha fatto piacere quando abbiamo presentato questa trasmissione che stiamo registrando. Questa radio. Mi ha fatto molto piacere suonare nel centro, mi ha fatto molto piacere suonare con l'intervistatore a fianco. Mi ha fatto molto piacere scoprirlo perché non sapevo manco che suonava. Non lo sapevo. Cioè, proprio non sapevo manco se sapevi fare gli accordi. Perché non ti avevo mai visto. Ed è molto bella questa cosa e mi piace. I fichi della bella fonte. Non è perché mi sta facendo un'intervista che gli dico questa cosa, perché no, assolutamente no. Non è sti cazzi. I fichi della bella fonte. Se l'ha preso male non capisco. Comunque no, a parte il discorso che vabbè. Questo è il punto, noi siamo... Vabbè, l'importante è fare le cose non perché si venga pagati... Ma appagati, perché io sta cosa ci tengo... A noi a transizione di fase, ma quindi rullo, ora però, te lo dico in dialetto... Guarda, siamo qua a rompere le palle ai mammalucchi che sono degli esperti in questo e sono dei pionieri... Facciamolo pure noi l'intervista. Allora, i figli della Bella Fonte. In progetto di chiedere a Samuele, che ora è andato a chiamare gli Albano Power, di chiedere come cazzo si stuta questo, come si chiude questo Android. Quindi, però prima di chiuderlo vorrei fare un saluto a questa piazza. Un saluto a Transizione di Fase a Taurianova. E adesso parleremo su quando si spegne. E qui c'è un annuncio. C'è in diretta il nuovo batterista, si chiama Daniele Giustra. Daniele Giustra, da domani è nato un amore. Suonerà con i fighi della Bella Fonte, perché è stato licenziato dai fighi. È un nuovo impiego. Allora, perché sono il rullante alla... Per me potete cancellare tipo l'80% di queste interviste, soprattutto quando parlava Daniele. Però il concetto è questo. Ha pagato, mi è piaciuto tantissimo. Mi è uscita di cuore e vi bacio perché siete grandi. Belli. Okay. Allora poi io nel prezzo, bravo, perché nel frattempo... Esatto, io prima di salutare voglio il counter delle volte che Peppe ha detto il concetto è questo, e di... è il mio personale di quanto ho detto sicuramente, dalla Lillo Foti. Vogliamo parlare del basso Marco Raggio. Il Marco Raggio assomiglia a Lillo Foti stasera. Se non si è capito, stiamo aspettando che arrivi il tipo che la regina che ha La regina ha pareggiato. Con tre pali.